il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Sappiamo dell'importanza che riveste l'Unione Europea nella promozione e anche nella difesa dei, soprattutto dei prodotti tipici e tutto il settore dell'agroalimentare. Sappiamo però che c'è anche un rapporto di un po' di amore e odio tra ciò che è il prodotto in Italia e un po' le normative europee, perché non sempre vanno incontro a quelle che sono le esigenze della nostra economia. Il 13 di dicembre entrerà in vigore un nuovo decreto che possiamo definire delle etichette mute. Ne vogliamo parlare con un esperto, anche questa settimana un collega come la settimana scorsa, un giornalista di Libero, ma soprattutto fondatore del blog Italia in prima pagina, che più che un blog sembra un vero magazine, che approfondisce tutte le tematiche relative a questi argomenti. Diamo il benvenuto ad Attilio Barbieri. Buongiorno, grazie a tutti. Ecco, cosa sono queste etichette mute? Allora, le ho battezzate così per distinguerle da quelle che ho definito etichette reticenti, nel senso che sono poi la maggior parte delle etichette dei prodotti alimentari. E dal prossimo 13 dicembre entra in vigore il nuovo regolamento europeo, approvato come sempre succede con l'Unione Europea addirittura nel 2011, quindi con dei tempi biblici. Ebbene, questo nuovo pacchetto di norme consentirà, fra l'altro, di omettere totalmente dall'etichetta lo stabilimento dove il prodotto alimentare subisce l'ultima trasformazione. Sarà possibile indicare un responsabile delle informazioni genericamente, delle informazioni comprese in etichetta, no? E questo purtroppo permetterà a molte aziende di lavorare direttamente nel paese di origine il prodotto, penso ad esempio al latte a lunga conservazione, etichettandolo però poi come se fosse con un brand italiano o con un nome italiano, e il responsabile delle informazioni contenute in quell'etichetta lì sarà sicuramente un'azienda con sede in Italia, per cui il consumatore non avrà alcun elemento per risalire alla vera origine ad esempio del latte UHT, insomma. Ecco, oltre al latte, quali prodotti saranno più colpiti da questo tipo di norma? Ma diciamo tutti quelli per i quali non è prevista l'indicazione d'origine in etichetta, che sono una piccolissima parte, se escludiamo DOP e IGP, sono poi, si possono contare sulle dita di due mani, sono l'olio extravergine, ad esempio la carne bovina, quella di pollo, le uova, insomma il pesce, sono veramente pochi i prodotti. Per tutto il resto, ad esempio tutti i formaggi a pasta molle e tutti i formaggi non DOP sono svincolati, sono esclusi dall'obbligo di dichiarare in origine l'etichetta, quindi possono essere lavorati in Germania piuttosto che nei paesi dell'est, nessuno se ne accorge. Quindi per essere sicuri della provenienza di ciò che andiamo ad acquistare, dobbiamo acquistare per forza un prodotto o DOP o IGP, altrimenti non abbiamo scampo. I prodotti DOP e IGP sicuramente sono a filiera controllata, sì, e garantita, nel senso che su quello non si discute. Ci sono in commercio, e sono sempre di più fortunatamente, dei prodotti certificati che dichiarano in maniera chiara l'origine delle materie prime. Sono tantissimi rispetto a qualche anno fa, nel senso che per ognuna delle principali merceologie che troviamo in vendita nella grande distribuzione, comunque ci sono più brand che puntano sull'italianità. Ecco, lì bisogna solo stare attenti, nel senso che non tutti i prodotti che mettono ad esempio la bandiera italiana, il tricolore, i nastri, le coccarde o quant'altro sulla confezione sono poi fatti con materie prime italiane. Bisogna accertarsi che l'origine sia dichiarata in maniera chiara, insomma. Ecco, un altro problema che mi pare stia sorgendo è quello del fatto che anche chi volesse mettere delle informazioni in etichetta non è detto che possa farlo. Leggo un comunicato della Federazione dei Vignaioli Indipendenti, per esempio, che contesta il fatto che dal 1° di gennaio, in teoria, chi non è una DOC non può mettere l'origine del vino se in quella zona esiste già una DOC o una EGP, per non creare confusione, quindi si va all'opposto, che anche chi volesse metterlo non può metterlo. Sì, lì queste in realtà sono norme a tutela delle cosiddette indicazioni d'origine, no? Nel senso che se io ho per esempio parliamo di una DOP che è nota universalmente, il gorgonzola, no? Io non posso produrre un formaggio che si chiami gorgonzola al di fuori della DOP, certo. Perché non avrebbe senso, a partire dal fatto che i produttori del gorgonzola DOP sono vincolati da un disciplinare molto, molto stringente, no? E quindi io, se ritengo di voler produrre ad esempio il gorgonzola piuttosto che il prosciutto di Parma, piuttosto che una delle 260 DOP italiane, devo sottostare al disciplinare, quindi devo entrare nel consorzio di tutela, diversamente non ha senso, se no io avrei duplicato dei prodotti, quella sì genererebbe una grande confusione nel consumatore. Certo, ci fermiamo per qualche minuto o tra poco? Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Try again, don't be afraid to fall apart. Stop, try again, I said to myself to hold on tight. I pray, I swear I'm only me. I pride, I sigh, I shine, I'm at last free. You fight, you fake, you force, yet not happy. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di fatto di tutela dei prodotti tipici e soprattutto del consumatore, quindi delle norme alla tutela del consumatore. Lo stiamo facendo con Attilio Barbieri, fondatore del blog Italia in Prima Pagina. Ecco, due argomenti sono, uno di strettissima attualità e uno comunque è venuto fuori quest'anno, che era quello del semaforo in Gran Bretagna che indica il contenuto di grassi nei prodotti. Volevo sapere un po' tu cosa ne pensi di questa iniziativa. E quella era un'iniziativa purtroppo pericolosissima per i prodotti alimentari italiani, che rischiavano di prendere quasi tutti il semaforo rosso, no? Perché il tenore di grassi piuttosto che il contenuto di zuccheri o di sale era superiore ai limiti fissati dalle autorità britanniche. Lì si verificava questo paradosso, per cui i prodotti locali inglesi, pensiamo ai formaggi, no? Che noi non ci sogneremmo nemmeno di mettere in tavola perché sono delle cose che sono contrarie alla cultura, alla nostra cultura alimentare, avrebbero preso il verde perché magari sono appunto a basso tenore di grassi, perché sono ottenuti da latte povero, mentre le nostre DOP rischiavano di finire tutte, di prendere il cartellino rosso, insomma. Lì si tratta di è una questione di quantità. È chiaro che io non vivo di grana padano piuttosto che di prosciutto di Parma, per citare due certo. dei casi più noti, nel senso che non mangio un chilo di grana padano tutti i giorni, non potrebbe essere, no? Quindi nella dieta i nostri prodotti hanno ciascun un peso tale per cui diventano salutari se assunti in quantità non eccessiva, no? Certo. Ecco, e quindi succedeva, sarebbe successo, uso il condizionale perché fortunatamente una volta tanto l'Unione Europea è intervenuta sulla Gran Bretagna minacciando l'apertura di una procedura di infrazione. Adesso, sfogliando il tuo blog, sarebbero tantissimi gli argomenti interessanti e magari ci risentiremo, ci torneremo su. Volevo chiudere un po' questa trasmissione con un'ultima domanda, anche se questo apre un fronte forse ancora più grande, il discorso della NATO economica, questo trattato transatlantico che potrà creare tutta una serie di problemi ai prodotti di origine europea. Ecco, qual è il nucleo, il centro forte di questo problema e come tu vedi un'eventuale possibile soluzione a questo tipo di, diciamo, di legislazione? E guarda, lì il problema del trattato transatlantico di libero scambio è uno solo. Gli americani volevano imporre come condizione per firmarlo la possibilità di commercializzare anche in Europa i prodotti taroccati, ad esempio, ne cito uno su tutti, il parmesan piuttosto che il combozola, cioè i classici tarocchi che si trovano in commercio negli Stati Uniti, no? Ecco, grazie a Dio l'Europa si è dotata di tutto il sistema delle denominazioni di origine che li proteggono, tant'è vero che i parmesan che venivano prodotti in Germania sono stati messi fuori legge, no? Certo. Ecco, gli americani vogliono poter esportare verso l'Europa questi prodotti che sono delle volgari imitazioni dei nostri prodotti caratteristici protetti dalle denominazioni di origine, insomma, e questo è un problema gigantesco perché già il consumatore europeo, italiano in particolare, quando deve fare la spesa si trova di fronte a situazioni di grande confusione. Figuriamoci se per ogni DOP, per ogni denominazione di origine ci trovasse sul bancone la limitazione americana, non ne usciremo più, insomma, senza contare il danno economico che ne avrebbe, ecco, la ce la faranno gli americani? Spariranno le nostre DOP IGP oppure riusciamo a tenere almeno su questo fronte? Questo non lo so, temo che la, diciamo così, la strada del negoziato, che peraltro è rimasto segreto fino al mese scorso, no? Questo è un altro, ci dovrebbe aprire un capitolo solo su questo piccolo dettaglio, diciamo così. La strada potrebbe essere quella di un accordo analogo raggiunto col Canada, per cui per esempio sopravvive in Canada, si produce un prosciutto San Daniele imitato e in base all'accordo raggiunto fra Europa e Canada i consumatori canadesi si trovano sui banconi dei supermercati il vero prosciutto San Daniele e l'imitazione locale, no? Questo con gravissimi danni per i produttori delle DOP. Ecco, ci dobbiamo fermare perché è un po' finito il nostro tempo, ma spero che ci potremo sentire a breve perché gli argomenti sono veramente tanti e la tua competenza sicuramente e capacità anche di comunicare sono sicuramente utili. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Abbiamo tempo adesso solo per un paio di velocissime notizie. La Camera ha approvato un emendamento presentato da Olivero Nicodemo del PD alla legge comunitaria in base al quale il contenuto minimo di succo di arancia nelle bibite gassate, di frutta in generale nelle bibite gassate, deve passare dal 12 al 20%. Ecco, speriamo che questo sia possibile, sembra una buona notizia. L'ultima cosa, l'articolo 35 del decreto sblocca Italia, che ha ottenuto la fiducia alla Camera, prevede che tutti i termovalorizzatori, meglio noti come inceneritori, divengano insediamenti strategici di preminente interesse nazionale. Cadrebbero così i vincoli di bacino e di conseguenza tali impianti potranno incenerire rifiuti urbani speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi a solo rischio sanitario, prodotti non solo localmente ma nell'intero territorio nazionale fino alla saturazione del carico termico. Ecco, questo fatto sta suscitando le preoccupazioni delle associazioni ambientaliste, ovviamente di molti cittadini, sia per le ripercussioni in termini di rischio della salute, ma anche perché c'è la possibilità che si scelga la via più facile, le amministrazioni locali possono scegliere la via più facile di creare nuovi impianti piuttosto che perseguire la via della raccolta differenziata e dell'educazione a rifiuto zero. Ecco, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con il quadrifoglio, ci potete riascoltare in podcast sul sito internet www.pluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.